Vabbè, era un incidente stradale un po' brutto, l'altro è rimasto giù con l'ambulanza, ho fatto due feriti con l'ambulanza e uno sono salito io sull'elicottero dei carabinieri, poi dei carabinieri dei vigili del fuoco. Bello. Io a Sassari abbiamo fatto la storia di Stintino sino a Sassari. Thank you. Stazione Ballo Cuduro. Prova a scrivere con la K. Cuduro. Traduzione Danza Cuduro italiano. Ok. Clicca, ci sono. Costano un barca di soldi. ottenuto 250 euro, in pratica mi ha pagato l'accordatore, l'UFO, i finali che costano 200 euro, i finali erano bui, anche quello lo stesso problema, un lucido rotto, per mettere a posto il lucido ci vogliono un sacco di soldi, allora l'ho lasciato stare così. Ho provato a far blitz e gli ho fatto così, giusto per fare le prove, per pintarsi, ma l'ho preso, l'ho venduto. Non me la frutta nulla, tanto. La storia lì a Matranti lo invito, me lo sono venduto. E adesso a dicembre, in fiera, Trulli, quello grande, tutte dentro le varie Kenwood, ne tengo una solo, e ne prendiamo una con le contropalle. Come sbalanzare il telefono? Cosa? Io dopo di lì mi ritengo da comprare. Mi tengo 430, c'ho la linea completa il 430 che è come il 440, no? Non manca niente. C'ho la T250 esterno, le PS50, la colonnina esterna, la N60, c'ho la linea completa. Ma tengo una solo, cioè tanto mi serve per la 27, quindi è più che sufficiente. L'FT950 c'è un nuovo grande digitale, quello è il top, e poi prenderò uno come i cristiani grande, un 7008, un 7004, insomma Icom, però questa volta Icom, voi faccio Kimbo di Esio Icom e basta, e boh, accorciamo un po' perché ne ho troppe della Kimbo, ne ho troppe. C'ho 340, un 680, 430, che come fai? Ma ti tieni solo il 430? Linea completa del 430 che come ricezione un pochino superiore al 440, ha meno memoria però un 4 conversioni, c'ha tutti i filtri, c'ha tutto, poi c'è il correttore automatico esterno che quello è importante, mi tengo solo con lui, con l'MC60 il resto faccio fuori tutto. Versiamo tutto. Ma Franco, non ne aveva uno che non funzionava, non ne puoi chiedere se c'è quel pezzo per le T? Ma è un 140 quello lì. È un 140, non è un 440. Tu c'ha il 80 mio, che gli ho dato io a Franco, e poi c'ha un 140 che praticamente non va in trasmissione, c'è i finali bruciati e basta quello. C'è solo i finali bruciati, però c'è il ricevitore che è perfetto, uno vuole aggiustare anche dice un 200 euro, poi alla fine non vale la pena, quindi lo tieni così, e un po' di pulizia facciamo, se no se vuoi vendere la collezione dei Kenwood non servirà nulla, un bel radio HF, un bel quadro in mano da base come questo che ho e via. Adesso vediamo, a dicembre ne parliamo. E magari li vedi anche qua. No, già, non ho più niente qua io. A sentirti dire poi che hai dato mondezza. No, lascia perdere già. Esperienze già fatte, nulla, a parte il fatto che io vendo meglio. Perché le mie radio sono nuove, perfette, no, non ci sono problemi. Me l'hanno già chiesto, capito? La porto su da Rai, da elettronica, me la ritira a 350 euro il pezzo, quindi fate il conto, non c'è problema, se no la Bovinoghi, ma cazzo sta facendo effetto, qui invece fuori dalle barre, nessuno ti dice niente, non vedi, non senti, non parli. Quello c'è vero, mamma, ma se sei sicuro che vanno bene a casa? Già, c'è il problema che tu forse mi conosci meglio di tutti, io sono molto opinione, quando vendo una cosa la voglio sentire sempre efficiente, che fai niente, ti muovi mani lento, si muove a toccare, non mi comprendo un cazzo, a me mi fa girare male. Io le radio, la verità, mai toccate, mai aperte, le mie radio sono tutte senza aprire, naturalmente. L'unica che ho aperto è il garage, perché io l'ho aperto per pulirlo, però ma non ho toccato nulla, l'ho solo pulito con lo spray, con l'aria e poi con lo spray contatti, una pennellatina dove c'è anche un distrattisce che si è formata la polvere, poi richiuso, riverniciato il coperchio che è richiuso. Lo so, forse, ma non tutti siamo uguali, vedi? Questa è una parola di 780, questo fa... questo è un buio 144, 430, tutto completo, adesso è quella che voglio. Minchia, compra subito 800 euro, però c'è l'MC60, autoparlante originale Kenwood SP70, microfono gli orecchie della base MC60, microfono gli orecchie della Palma MC53. Perfetto, interamente con manuali, unico proprietario, mai riparato, quando per il non finito, mancato antenne. Questo è interessante, molto bello anche esteticamente, molto grande. Però io non faccio niente perché le linee delle V e delle U io ce le ho già, quindi sono base, anche quelle sono della Icon 271H e 471H, che sono più grandi delle 440, molto più grandi, quindi cosa ne vuoi a comprarne una vicino a Cicanuta. Buonasera signori. Qui Sandro, buonasera. E allora che si dice da quale terra? Stavamo parlando della fiera che deve andare Claudio a dicembre. E stava dicendo che vuole vendere tutte le varie e tenersene una solo delle Kenwood. Ognuno diciamo che decide del proprio, va bene, avanti qua. Pensa lì, alla fine insomma sono tutte doppie, sono tutte, diciamo, già gli anni sui. A dicembre la metto tutte dentro un trulli, tengo il 950, la linea del 430 completa, adesso porto su tutto e vendo tutto. Vendo tutto, prendo un 7004 della Icom base, quella in banda, o il Pro 3, sempre della Icom, insomma qualcosa di grosso, quasi pure che prenda il, che se lo trovo al prezzo che buono. Ora se ci faccia un pensierino sul Mark 5, non lo so, però voglio una radio grande, una radio anche per avere un po' più spazio, qua cazzo è tutto linea completa e che vuole già dico, poi alla fine sanno cosa ne fai, sempre una ne accendimi, non è che le puoi accendere tutte assieme, l'unica che è sempre accesa è il 950, perché c'è l'antenna sua e quindi riesci a lavorare, a ascoltare, a fare, ma gli altri che sono... con un'antenna che commuti, non è che se la usi su una radio non la puoi usare sull'altra, quindi alla fine non ha nessun significato. Grande cosa, bella cosa, tutto in ordine, però alla fine è sempre un anidratti, quindi. Diciamo che come discorso non fa una grinta, perché in effetti diciamo che uno potrebbe avere la passione grande quanto uno voglia, però diciamo che poi alla fine dei conti diciamo c'hai questa bella vista, bello in ordine, bello pulito e tutto quanto, che poi l'utilizzo diciamo è sempre uno, però sì, ma vabbè, oddio, se uno ha la passione, io adesso l'altro giorno così su internet sono andato a vedere il sito, stavo cercando qualcosa e sono andato a finire su Ari di Fidenza e sono entrato giusto così per curiosità e tutti i radioamatori hanno diciamo sul sito la fotografia delle stazioni radio c'era questa stazione radio una stanza è presente, una stanza tipo libreria con tutti i suoi scaffali e cose. Ma che cosa c'aveva? C'aveva di tutto, ma faria un antiquariato. Me la ne fai già? Che cosa mi fai? Niente. Sai, io la prima foto, quella che c'è sul sito dell'ARI, che ero nell'altro piano, cosa tutto c'era? Il doppio di adesso. Vabbè, alla fine cosa c'avevi? Sempre una ne ho parlato, c'avevo il 940, il 920, il 790, il DS2000, il 440, il 430, il 140, il 680. Che cosa ne facevi? Lei i gemellini della Icon come ce l'ho adesso, che adesso ne ho uno, prima ne avevo due. Cosa ne facevi? Che cosa ne facevi? Niente. Sempre tutte spente, oppure dovevi commutare le antenne, lasciare le eccezioni. Non serve a niente. È bello avere una stazione radio così come c'ho io, un posto, diciamo, dove io sto qui e sto al computer, accendo tutte le radio, sto in ascolto, la sezione baracchini, è bello averlo, ma l'utilizzo è sempre quello e non è che cambia per tutte le diamanture. Con un'attività amatoriale OCB, come noi, il discorso è sempre quello, se stai trasmettendo una carta non puoi trasmettere in 27, perché contemporaneamente non si può parlare. Quindi, avere tante cose è come giocare a figurine, no? Ce l'hai 430, ce l'ho, ce l'hai 281, ce l'ho, 95, ce l'ho, e ce l'ho, vabbè, e ti rimuovi in culo. Avanti già. E la storia sì è quella, ma diciamo che anche l'aspetto della sala trasmissioni è bello vedere, perlomeno io adesso ho visto su internet, sono andato a girare e ho visto la fotografia che hai messo con tutta l'ambaradan nuovo, eccetera, eccetera, ed è una bella stazione, devo dire che è abbastanza, è presentabile, è piacevole vederla. E magari non era finita, la vedi adesso dal vivo e fatemo cambiare foto. Adesso dal vivo è finita, e ci sono i faretti, c'è tutto e mi è costato un bellino fare questo lavoro, però l'ho dovuto fare perché questa è la mia stanza, questa è la mia sala radio per i gruppi. Capito? Qua non c'entra nessuno, solo io e mia figlia, il computer, però non ci sono cavi, non c'è niente, roba che possa avere pericolo, sono la vita dal vivo, l'ho vista tutti, addirittura qualche radioamatore mi ha detto dove avevo comprato quella scrivania e io ho risposto che è stata fatta da falegname e misura, ma è un sistema che se tu la vedi Gianni dal vivo mi dici che sta un bel lavoro. L'ho vista Natalino in costruzione, praticamente pieghevole, se io dovessi verniciare questa stanza e togliere tutte le radio, posso abbassare la scrivania, sono pieghevoli, sono tassellate a muro con una trave fatta da Giulio, i piedi sono pieghevoli e regolabili, ma sono bellissimi da vedere, se non già l'ho visto. L'ho dovuto fare, adesso finita. La L, perché prima ci mancava un pezzo, adesso c'è tutta la L, quindi gira, praticamente io sto in mezzo ed è una bella storia, però non tutti ci hanno posto, io è 2 anni che finalmente sto respirando con le radio e posso dire che adesso ho il posto per poter lavorare, ma prima ero sempre accampato, anche quando ero all'ultimo piano, una bella cosa, anche lì me l'avevo fatta Giulio, tutti i piani, anche Andrea Molina me l'ha fatto. Tutti i piani, l'ho fatto bene, però era un angolino, era un buco. Invece qua c'è una stanza da 6x4, quindi insomma, una stanza da 24 metri quadri, solo per te non è buccia d'arancio, con finestra, faretti, insomma, tutto a posto. E tu Sandri, dove che sei organizzato? Nel salone lì. Quando posso pensare su questo radioamatore sono organizzato. Cosa te volevo mettere per iscritto da me? Ti vuoi trattenere, ti dopo vai a mangiare. Capo, c'è un tabù di gruppo. Se non danno più tutti i per due giorni a letto io sono stato. E comunque c'è così anche mia moglie, dove i urlini, lo stesso, ho sentito altra gente, lo stesso, è probabilmente un virus. Ciao Gianpa, ci sentiamo. Yes. non ti fischia. Ah, sto provando, allora, ma tutto sono qua. Se fate non ha frusciato. Guarda. Fischia? Ma vai attivo. Non lo so voi. Ma per è basta qua. No, non lo so voi, buono. Sì, sì, ma fa, quando tu schiacci fa, come se fosse una papera. Ho capito. Sto allucinato, insomma. Io penso sia una roba di alimentazione. Ma provato con un altro alimentatore a vedere se faceva lo stesso. L'ho provato. L'ho già provato, ma il mio confermatore faceva lo stesso. Però con la batteria della macchina. L'ho provato, ma ovviamente non lo facevo. E allora la questione deve essere roba di corrente. Magari quelli che provate sono tutti e due sottoalimentati, non ce la fa. No, quello che ho provato secondo era un telecom 95, penso che sono sotto alimentato la pizza. No, che non secondo il apparecchio è la telecom era, non era passato. No, ma l'apparecchio che stai modulando, che apparecchio è? 87. Il? 87. No, non ce la fa, ce la deve fare come? Ma cosa l'hai modificata? No, normale. Normalissimo. E allora non ha senso un capo. No, ma questo fa ogni qualvolta schiaccio la portante, mi si diminuisce la lampadina dello smitter. Strano, allora c'è qualche fosso contatto. No, perché non ho guardato Claudio Salviero, ha aperto tutto sistemato, penso al fosso contatto. Però se non lo faceva, arrivo qua e me lo sta provando a fare. Sotto non riesco a capire il perché allucinante, già fa la papa, il giorno fa il fischio e cambia un po' di suoni anche. Lo so, lì c'ho stazionari 1, non vedo il motivo che debba fare così, non ho capito. Penso che dipenda più che altro o dall'apparato o dall'alimentazione. Ah, boh, e se io trovo il bipi, se lo fa senza il bipi, boh. Lo stesso, prova tanto con l'altro apparecchio. Vai? L'altro apparecchio. Che senso? E invece che usare quello che stai usando, usarne un altro. No. Non posso usarne un altro perché momentaneamente non ne ho. No, perché se ho portato il dubbio, provato un altro apparecchio a vedere un po' come si comportava. Sì, quello sì. Quello avrei potuto fare. E adesso vediamo. Sono guarda, mi ha intenzionato di prendermi. Dice che Museo ce li ha questi apparecchietti molto a perdere. Fagliette, no, sono buoni come marca da fagliette. No, ma mi serve giusto per ascoltarmi e accompagnarmi, capite? Sì, c'è quelli piccolini che sono 60 euro per una piazza. Quelli lì giusto per ascoltarmi più che altro quando lo accendo, vedere fare qualche regolazione, perché così è peggio di pigliarla col paese, non posso fare niente. Vabbè, è un casino quando cominciano queste cose che vedo Billy rubato. Lo so. Vabbè, non posso preoccupare direttamente, tanto lo fa solo all'inizio, non mi schiaccio ormai che basta, pago una specie di... basta, poi del resto non è che mi preoccupo. Quella l'avrei voluta fare, solo che dice che non fa brava a mettere la batteria qui. Dove? All'apparato. Come lo fa? Dice che un casino. C'è questo fischio che boh, qua adesso è strano, che non si riesce a boare davanti ai beni, anzi compreso. L'unica di provare, come ti fa pensare, un apparato, proprio quello lì, se non lo fa vuol dire che è apparato. Esatto. Ma io posso sempre fare la prova, mettere la batteria di nuovo, anche a vedere un po' se il discorso di alimentazione o il discorso di apparato. Posso sempre provare. A quello sì. Adesso provo due secondi, se sei in radio provo ad attaccare la batteria, sempre di se a carica, se no devo rimetterla sotto a carica. Adesso vedo com'è. Ma stasera non si adesso, tutta magnata, dai, tutta magnata. Sono qualcuno che se no poi mai vado a letto. Va bene. Io dopo un secondino poi faccio a chiamare se qualcuno. Guarda un po' che pesa. Sento un po' lo schiaccio ormai che se senti anomalia lei. Messino. Ciao, del resto tutto bene? Tutto bene, siamo riusciti a passare le stazionarie, sono a 1-1 e dovrei uscire abbastanza bene adesso, dai, guadagnando 2 punti, almeno sono lunghe distanze, ma qualcuno anche non va bene così, dai. Ho capito, ma che antenna c'è di nella tua cortina? Qua c'è un arrivo a Battuta, quindi neanche il segnale che è forte, però la radio è sicuramente abbastanza bassa. Adesso ti sei aumentato le radio, quello hai fatto? È fatto una cosa particolare che solo noi grandi modulatori sappiamo fare. Orca miseria, orca, buono. Sono funzionato al microfono. Ecco, era ora. Pagava Gianni dopo Roma. Mi pare che vi saluto, vado molto monotonia in questi giorni. Speriamo che se qualcuno vuole. Si è già addormentato, sì. Tanto. Oh, bravo, buonasera, dimmi. Ciao, ciao a tutti. Mi ha risolto il problema del microfono. Mio? Cosa era? Quella figlia di buona mamma. Quando sono andata poi a prendere la batteria, ma te l'ho scarica. Ho cambiato la batteria, senti un po' se fa di nuovo il fischio. Sabato si può organizzare, che domani non si lavora, oppure un lunedì sera, ma non questo, perché questo lunedì devo portare la macchina e mi sembrare la mi deve ripiazzare il cielo. Ma perché dopo che sotto per il conto per la testa? No, stamattina, visto che ero, cioè veramente non era previsto che io dovessi essere un permesso, perché questo permesso io l'avevo chiesto per oggi, però poi siccome devo fare una visita mi hanno chiamato a casa la segretaria del dottore e mi ha detto che il dottore aveva avuto dei problemi e che mi poteva visitare il 19, quindi io sono andato all'ufficio personale, gliel'ho detto e mi ha cambiato di giornata, solo che deve essere, si sono dimenticati, non hanno letto il foglio e nei turni mi hanno messo il permesso, solo che io ho detto magari hanno fatto così, hanno messo il permesso perché e poi si sono sbagliati. E invece stamattina sono arrivato e mi ho trovato il mio collega che mi sostituisce e mi ha detto tu cosa ci fai qua? Cosa ci faccio? Allora è venuto. No, ci sono io già posto, non li detti tu, li detto sì, li ho letti, però pensavo che avessero capito. E poi alla fine sono salito su, la principale, ho detto cosa devo fare, perché io ho già fatto mezz'ora di lavoro. Quindi dice non fa una cosa, vattene a casa, poi gli fatti questo permesso, e intanto c'è l'altro, cosa fai? In due ti detengo. E allora sono andato a me e mi sono fatto fare quel lavoro. E ho detto ne approfitto. Mi faccio smontare il cielo e me lo faccio fare la macchina, la tengo io, poi lunedì vado e me lo ripiazza. Lo chiama a bere la collega Roberto. Ma scusa se non ho pericolo per quel colpo della strega che hai avuto. No. Io faccio delle visite, faccio sempre delle visite di controllo e coso. Io sono diabetico, quindi devo andare sempre esclusivamente per fare queste visite di controllo, capito? Vado ogni 6 mesi e poi mi sto facendo tutti i controlli possibili e immaginabili, non è mai troppo. Io per me non posso esagerare, perché sono molto assoluti, assoluti delle cose che poi magari si risolvono da sole, però magari se sei lì a sapere che cosa sono, magari si preoccupa. Ovviamente si controlli di lui, ma da chi vai come dice questo luogo, da Baffetto? Sei da Frulio. Sono qua fissando lì. Deve avere un amico qua di fronte. Lo vedo ogni tanto che va a cena. Ma tu lo sai com'era la Frulio? Da poco ha avuto un fatto. Ne ho avuto due. Ma si aveva appuntamento con una persona che non conosce. È arrivato a corso, all'altezza del corso, ho sentito un suo dolore al petto, l'hanno ricoverato l'urgenza che avevano troppo, che era stato curato. E ho detto, come sta dottore? Di solito è il dottore che chiede al paziente come stanno, e lui si è girato, mi ha guardato e mi ha detto, sta meglio, e gli ho detto, no. Ma è stato molto bravo. Molto bravo, perché a trattare sono pochi, se non sono pochi. Dottor Frulio, oltre ad essere bravo, era un cliente di mio padre, conosce mio padre tutto quanto, conosceva mio padre, e in più una persona molto alla mano, mi ha detto come ti tira giù di lì, sassarese o in italiano? Fermo, troppo fermo. Dici, va, in greco non ti uso così, ma in italiano è sassari così. Dici, di tu come ti dice di farmi da? Sono molto bene, tra l'altro è anche reggio, non lo faccio, no? Ma lui abita via Polizia, no, sono di Sassari, penso. Penso che siano di Sassari. C'è apparenti a Porto Torres. Sono una persona in gamba, lo conosco almeno come una persona davvero affabile, in gamba, molto molto preparata. Dovrebbe abitare nella zona di Aprunicella. Però ha un po' di gastronomica, però vedo che c'è un rispetto alla casa di Borsina, lo vedo rispetto. Poi comunque se l'ha vista brutta 2 volte e quindi però sì che anche lui debba andare a controllo, se sembra sembra un coso, un'assurdità, ma è così. Sono stecco, non è che puoi dire quella avuto lì ha fatto qualche robusto, ma ne stavamo parlando anche, c'è gente che fa sport, che se lo farti, cioè che è sport, super sportivo, come quel ragazzo poveraccio che è morto alla palestra bunker, e io ce l'ho presente, diciamo, cazzo, quello lì faceva sport, sempre allenato, sempre tutto, era una partita d'allenamento che stavano facendo e ci è rimasto, si è accasciato. Ma tu guardi, a parte che molti improvvisi e molti sono molto più giovani, quelle poi state la ragione garantia, state sotto la motivo per il quale adesso sembra che anche il punto di potranno mettere quel macchinario proprio di nuovo, insomma, fatto da solo una cosa che è controlla, che dà la scarica, perché si è ripreso, però bisogna quello anche molte malattie tipo la sono malattie che arrivano molto stanche al corso, malattie nervose, quindi magari, boh, non so il perché, dovrebbe essere il contrario, perché quando ti chiedi un allenamento dovrebbe essere il contrario, però in alcuni casi è così, è vero. Sì, sì, ma diciamo che per il che delle cose bisogna avere sempre i corsi, non è che lo puoi usare così. Uno che devi fare allontanare la gente, che se qualcuno mette strano la scarica e si avvicina ci rimane, perché come tu sai noi la corrente interna ce l'abbiamo, se tu dai una scarica forte a chi ha un infarto per fargli riprendere questa diciamo il ritmo al cuore, ma se cavolo uno ha già un ritmo buono e magari va a toccare quello che stanno dando la scarica ci rimane. All'apparato cardiaco, non lo spazio normale, tanto però spolverato per quello che poi alla fine si fa il materiale cardiaco, perché si è bene, ma comunque è una persona, non posso dire di sono semanti, diciamo che è un modo di ore, è stato una bomba di quella persona, ma dovrei solo la pastiglia. Sì, sì, io ho già 12 anni che ho preso la pastiglia, riesco sempre a avere una glicemia abbastanza buona, anche se qualche volta è ballerina, ma la maggior parte delle volte ce l'ho buona, 85, 100, 115, dipende, solo alcune volte è arrivata a 300, ma è stata sempre per un'esagerazione mia. Anche 85, sino a 120, capito? Sino a 120, puoi averlo, ma 120 è proprio il culmine, è il massimo. Ragazzi, bambini proprio, io ho un'amica che deve andare all'asilo perché le signorine hanno paura di farla e quindi deve andare lei a quella data ora, fare l'insulina e poi andare via, c'è avuto sempre questo problema qua col bambino, ecco lei è stata la pediatra che l'ha mezzo rovinato, glucosio, alla fine era fatto di diabete. Figurati, no, comunque sono malattie che nel giro di 5 anni verranno debellate, soprattutto il diabete. Hanno praticamente scoperto questo animale del deserto che produce insulina, l'hai sentito? L'avevo sentito, se non faccio mai fatica di grande, molte malattie verranno debellate, massimo 5 anni, 15 anni, ma neanche, non ti arriverà neanche. da me c'è una cosa diciamo che ti porta molte conseguenze, ti porta un po' di conseguenze. È una malattia controllabile, sì, però adesso si è infida come malattia, perché tu pensi di stare bene e poi di colpo tardi da te ammazzare. Una persona che è colpito, però si è trascurato, trascurato in molto la permanenza in Africa, la condizione di stare così. E appunto Angelo Ricchieri, lui da stessa soffre di diabete, gli hanno amputato una gamba, ma perché? Perché ha passato 10-15 anni in Africa senza nessun controllo, quindi quando è arrivato qua aveva già, diciamo, il sistema circolatorio compromesso. I controlli me li faccio, me li ho fatti tutti, ma non è che sia esagerato, no? Me li faccio una volta ogni tanto, analisi del sangue, queste cose qui le faccio già col fatto che devo andare a fare la visita per il diabete, ti porto già tutte le analisi e loro già da lì ti danno un risultato, ti dicono bravo, poi ti dicono c'è bisogno di ritiro, secca l'Italia di sarati la bocca. Parole, ma è acqua, ma non più di tanto, ne bevo ma non più di tanto, e io non sono di quelli che bevono molto perché la diabete si sta facendo quello, no. Bevo molto l'estate, la verità, 2 litri la mattina, 2 litri la sera, 4 litri d'acqua ma li bevo al giorno, ma adesso comincia a calare il caldo e cose del genere, ma è una cosa normale, 2 litri così, non di più. 2, 4 litri non è poco, però consigliano di bere almeno già i 2-3 litri che va bene. L'unica cosa è che quando bevi molto perdi molti sali minerali. Non so, infatti bisognerebbe integrarli con delle acque che contengono sali minerali, appunto, gasate, cose tipo la San Martino, roba così. È poco perché se tu mi vedi l'estate come quando io lavoro ti metti la mano in testa, capito? Io mi bagno tutta la maglietta di sudore e coso, studio un casino lavorando, capito? Quindi i liquidi ne perdo. E uno nell'altro no. Quello frigo c'è l'aria condizionata e lo stereo, un impianto stereo di uso vero, audiola, e va anche bene, c'è tutto, c'è CD, c'è tutto quanto. Quello lì è quello che di solito usano anche per andare a Tiesi, il principale, cosa così, se l'ha fatto bene. E il mio me l'ha fatto, il mio che è più grande non gli ha messo l'aria condizionata, perché quando gli ho detto mi ha detto che sto sempre scendendo e salendo, consegnando, e che mi fa male. Ma è andato positivo? No, negativo. Non è finito. Come è finito è mai a buon punto, va. Ma come se tu non ti avessi dal microfono? Stai andando scomparendo, Piccolo e nero. Attenzione Fabrizio, e drop cash. Magari di notte oggi. Non ho detto magari è di notte oggi. Ragazzi, l'ho visto prima, stava passeggiando. Non volevano mangiare. Perché? Cosa hai mangiato? Un giro di pancia, una volata meravigliata e pacciatura. Eh sì. Poca merci oggi, poca merci. Dico qual era la proposta. Come? Dico qual era la proposta, che una di questi fine settimana con Gianni andiamo che facciamo una rotta o in viaggio comunque per la via, così andiamo a pescare in viaggio. Ma guarda, posso dire che sono sceso vicino alla cetina e dopo tanto sono entrato alla butta. Non c'è questa anche del pesce. Ma una moneta l'abbiamo tolta, una moneta un metro e dieci, buona buona. Poi del resto le canne erano sempre fisse lì, non batteva il chiodo. Ma io ho l'impressione che alla Argentina non vi sia più nulla. No, non è proprio nulla. sentire nulla, sia questione di periodo, perché ci sono i periodi che peschi e i periodi che non peschi. Questo è il periodo che ci sono le orate che fanno le uova, ci sono di quelle grosse, anche da 4 kg. Non è questione di periodo, è questione magari anche di inquinamento, poi la gente da lì scaricano le fogne, non mi ispira. Noi siamo andati con Salvedio, una volta Salvedio, un altro amico, siamo andati lì all'argentiera, una toccata di una toccata, non ci hanno fatto una toccata, il verme così era e così è rimasto tutta la lì, nemmeno un pezzettino. No, ma io guardo proprio l'Argentina, attenzione, io vado dove c'è il cimitero, sotto il cimitero. E noi siamo andati a Porto Palmas, là. Ti ricordo che comunque il lomone, quando va la vicina a Salome, il lomone si dovrebbe prendere 150% meno dalla barriera, il lomone non lo fa. Perché se era quello che si dà nella vicina, se vado a fare una vicina di carica, il lomone il gomone non si potrebbe manco avvicinare alla battigia per legge, molta gente entra dalla spiaggia, non si può fare, deve entrare dal molo, si fa perché si fa, però io ne ho visto una addirittura che tirava il gommone, allora lui al quinto pettine con un canale longolungo attaccato alla macchina, per tirarlo su ha usato questo spago, con la macchina lo tirava, poi alla fine l'amico ha detto boh, era arrivata al coso, la nastra di impresa si era ricaricata, non aveva manco carrello. Tutti i dai, devo andare a caricare, va bene, io rimango alla fine al QRX e sto facendo una cosa, al limite se è già rientro. Ti andare. Vabbè, se c'è qualcuno che vuole entrare già entra, io sono qua. E comunque il problema non lo sto facendo più già, no? No, negativo. Era la batteria, là. Ok, la batteria era. Non me ne accorgo anche del smitterino del microfono che adesso come modulo sale. Prima non saliva, se ne vedete era la batteria. Vabbè, detto questo rimango un po' più rischio, al limite ci ascoltiamo più dopo. Faccio fatto con Codex. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare. Hello? Hai sentito già la sentenza di quei ragazzi? No, negativo. Assunti tutti e due con formula piena. Ma come si fa a tenere 4 anni due persone in carcere e poi sbagliare in secondo grado? Ma sono assunti tutti e due. Non c'è una mancanza di prove allora. Ma prima in primo grado non te ne potevi accorgere la mancanza di prove. Cazzo tieni due ragazzi, giocano così in carcere e poi in secondo grado li discolpi da tutto quello che è il processo iniziale. E adesso la mandano subito lì, la mandano subito in America, in Inghilterra dove abita. Tutti e due liberi, da adesso subito. Allucinante. Ora lo stato guarda. Tanto 22.000 euro devi pagare al subizzino che ha fatto 8 giorni di carcere, quel negretto. Deve darle lei 22.000 euro per calunnie. Uno. E in più adesso a questi due quanto cazzo le tocca? Una vacca vedrà. Una vacca vedrà. Vergogna, pezzo. Che vergogna. Che vergogna, poi dice che lo Stato italiano è in deficit, cazzo, io lo vedo di tirare a fare di nago sì. Non lo so. Purtroppo se sono veramente innocenti, tutto il fango che gli hanno buttato addosso non è poco, no, gli hanno rovinato la reputazione, anche se loro hanno l'innocenza, se sono innocenti veramente. È una cosa che dispiace perché caso la reputazione ce l'hanno rovinata, non è solo questo registro di questione, è che se loro non hanno fatto, non hanno commesso l'omicidio, è una cosa brutta avere certe cose addosso se non le commesse. Che sciuga, un buco di leva, per carità di Dio. servizi che c'erano contro di loro. Allora che cazzo li ha presi? Cioè persone cieche, le perizie, tutti i periti, cioè venuti da fuori, boh, non si capisce. No, guarda, per carità, parte la reputazione uno perde, ma in questi giorni che loro hanno passato in carcere, ma tranquillo che se sono veramente innocenti, che se è stato confermato così, sono dolori a parte il denaro che li aspetta, perché adesso, a parte il denaro, loro hanno perso giorni della loro esistenza, in carcere, innocenti, ecco, se tra virgolette, se veramente sono innocenti. E quei giorni lì non li ha di nessuno. Tanto se sono innocenti, fa che? Secondo me sono assolti per insufficienza di prove, con forma piena tra l'altro. E l'avvocato di quella ragazza ha già dichiarato che domani partono immediatamente le carte per costituirsi parte civile, quindi cazzo, due soldi da togliere. Pescio Maria Gara. Se ti sei volendo 22.000 euro di subizzino che ha fatto 8 giorni di carcere, 22.000 euro, più deve fare le spese processuali, figurati tu, l'otto di, che ti hanno arrivato 4 anni. Ah, anche in quel momento l'ho scarcerato. Allora, l'ho scarcerato prima, e l'hanno guadagnato 8.000 euro subito per le spese che ha affrontato, adesso ne ha lavorato altre 22.000. Che bello, non mi ha stato italiano, grazie per carità. Ma se ne fanno la risata agli americani, grazie per carità, la razza di blu, di specialisti che ci abbiamo, grazie. Allora vi manca chi che proseguono anche Anna Maria Fanzulli e la famiglia, come si chiama, quello di Sarascati. Sì, ma andiamo a finire proprio in mezzo alla merda totale. Io non sono convinto di Maria Franzoni, di quel verme schifoso che hanno ammazzato quella ragazza, sì, perché quello è un verme schifoso, si vede dalla faccia che è un pedofilo, cazzo, una persona viscida, schifosa, lui, la figlia e la moglie, tutte e tre. Ma non ci credo che possa aver fatto una cosa del genere a un bambino così piccolo in pochissimo tempo, in 5 minuti di boh. Non ci ho mai creduto in quello, non ci ho mai creduto. Comunque, anche lì si vedrà, anche lì si vedrà. Per il momento è condannata all'ergastolo, poi sentenza in secondo grado, non è fitta, quindi. Non so, quello lì è sempre un punto interrogativo, infatti anche la giustizia non è che l'ha giudicata subito, ci ha messo un po' di tempo prima di giudicarla, perché il caso non era di quelli più facili, però io ho sempre detto, se non è colpevole, che riescano a capire chi lo sia il colpevole, perché chi lo ha fatto è veramente un verme. Ma perdersela con una creatura e niente, e quell'altra di Sarascati e tutta la famiglia, di quelle famiglie che a lui lo trattavano male, lo lasciavano senza mangiare, gli davano da mangiare come i cani nello stesso piatto sporco loro, io ne ho sentito tutti i colori. Non c'erano portante sentiero nuovo sotto di te, vabbè già, però il problema è che se la giustizia italiana continua a sbagliare in questo modo, penso che ce ne siano poche condanne, ce ne siano ben poche, perché alla fin fine, se è vero che si condannano le persone innocenti, che allora quelli che veramente sono colpevoli cosa devono fare? Marcire in carcere. Non ha un peso ben nulla, sinceramente. Vai a te. Ci sono parole, sì, sul fatto di quella famiglia che il padre ha fatto tutte quelle scenate del pianto, del ritrovo del cellulare, di quello, di quell'altro, lì già ci hanno. sempre assurdo che siamo stati assurdi, cazzo, e a fuoco la pena. Ma è una cosa allucinante, la verità. Guarda, gli errori che fanno è una cosa allucinante. Mia suocera l'ha detto dall'inizio, lì c'è implicata tutta la famiglia. Sì, sì. Tutta già c'è implicata lì la famiglia, tutta quanta, tutta, anche i parenti di lui, tutti quanti. Sono tutti a una faccia di schifosi, cazzo, di pedofili, che non mi viene bene a dirlo. È proprio una famiglia che non vale a niente, niente di niente, perché hanno messo in scena bugie, menzogne di tutti i tipi, capito? È così. E chi si era lasciato in carcere davvero? Alla migliore era mamma, è puro Edo, sta minacciandomi, mi ammazzo se non esce, mi manca mia moglie, mia figlia, ma ammazza, di cosa cazzo ci esistono ammazzati? E la via Busi, tutti e tre, tutti i canti dritti, tranne la figlia, vabbè, che c'è la Funi che non c'entra nulla. Ma loro li avrei messi tutti quanti dentro, così non mi sarei sbagliato. Ma avrei fatto fare la stessa fine, l'ho fatto fare a quella ragazzina, capito? L'avevo buttato io su in garage, l'avevo impiccato in tutte e tre le gravi. Tu stavi dicendo che sta buttando i soldi lo Stato facendo queste cose, ma tanto in ogni caso li butta sempre, perché poi deve rampare in carcere a loro, quindi sempre se li rampare di là. Ma il bello è questo, cioè lui si autoaccusa, no? Per la legge dice che lui non ha fatto niente, ma uno che va a autoaccusarsi, ah, mi devo dare capolavento, cosa c'hai, chi mi fa tagliare la monica, fa cosa, se tu dici qualcosa anche se non è vera, ma il capolavento retto, cosa ne fai di merdosa così fuori, dai, io. È tutto un intruglio e hanno cercato di girarla a modo loro per non far capire la cosa vera, capito? Cioè se l'hanno studiata bene, ma la giusti. Hai ragione, dottor. Io vado, io vado, dai, ragazzi. Il sistema che io pago, come diceva il dottore, anche buono, ma già paghiamo noi. Perché per tirare fuori tutti questi quattrini dalle casse dello Stato, state pur certi che prima o poi qualcosa ce l'aumentano sotto sotto, un lieve aumento per ammortizzare le spese dello Stato ci sarà sicuramente, perché immaginatevi i quattrini che devono dare a questi due ragazzi, che non sono noccioline perché sono svariati miliardi sicuramente. Sì, beh, si conferma. In effetti, sono tutti soldi che poi vengono tutti da noi, ovviamente, dai cittadini italiani. Ma non la porcheria, già a sentire queste cose, non sono pena, va, per carità. E va, io vado a parlare, noi abbiamo 30 anni, non va a parlare. Va. Quanto l'IVA te l'hanno aumentata e non hanno pubblicizzato molto. L'IVA adesso è al 21%, ragazzi. Sì, al 21%. Eravamo conosciuti al 15%, ma cos'era? Al 10%. Siamo già al 21%, con una liquota sballata, totalmente sballata. Per carità di Dio, vabbè, comunque. Questo è il nostro Stato italiano. E come ti ha detto tu, Anto, già se ne sorridendo gli americani. Per carità. Già se ne sorridendo. Cesso, fiato, che buco. Uia. Vabbè. Va bene così a loro, va bene anche a noi, cazzo ce ne fotte, tanto. E così e basta, tu andi a fare una gazzata, uno scherzo, cazzo ti arresto, non esci più da galera. Lo so, lo sì, ma il bello è che mi è piaciuto di più la giudice, che ho detto, peccato che non c'è la pena di morte, se no ci vorrebbe anche la pena di morte per certe cose, cazzo, che figura di me, ma guarda, scusate, dirmi, pacare dai, meglio niente. Ecco. Consultinario 10, prego. I sopravvissuti stanno facendo a galla, avanti, capito, vai qua, la vagogna semo, pacare dai. No, le alici di bocco. Ecco. Avanti, Giuseppe. C'erano tutti i componenti della ruota di 10, a te Gianni, Claudio e Antonio Paghetto. Giuseppe, mi hai sentito? Là, c'è anche Barra Agricola. Vabbè, saluta a Giuseppe e poi facciamo entrare a Barra Agricola. Avanti, Claudio. Ciao Giuseppe, buonasera, ben entrato. Avanti, Barra Agricola. Ciao a tutti, buonasera a tutti, comunque. Ciao Barra Agricola, come sei tutto sparato stasera? Cosa c'hai attaccato? Attenta, Claudio Schifo. L'altro giorno sono venuto a trovarti e c'era tuo figlio a casa. Dentro te l'hai sono venuto a trovarti. No, negativo. Quando? Ma lì il furbacchione più dal pane. Oggi lunedì, mi sembra che venerdì c'era. Ed ero a casa, non sono uscito a venerdì. Ma ti vedi su tuo figlio e tuo papà, c'è, no, non c'è il papà. Non sono uscito. A meno che tu sei venuto presto, a che ora sei venuto? Verso le 8. E io rientro con l'ora da lavoro, fatti un buon. Quindi ho capito, tutto a posto, stai lavorando Gianni, stai bene, no? Vabbè. Io così, meglio così. E lui è Berlusconi, quello là non è a te. Tanto lui c'è solo, tu non è mai. Ma si vede che lei di là, meglio la salute. Quello c'è vero, ma io sto dicendo meglio gli altri che a noi, ho capito mai, che noi non abbiamo soldi, a quelli che hanno soldi ma ci si fanno guarire subito. Allora, ne hanno da buttare, cazzo regala, prestiti, regali, mustarelle, burrisse, oioi. No, oggi stavo provando a vedere se si potevano lavorare, il trattore non vuole lavorare, o se mi altri ci buttate insieme, se non piove un casino quest'anno. E io mangio umido il terreno, dai. Castellina solo. Sì, Castellina, tutte le porto, tutte le porto. È una vergogna, grazie a 10 centesimi. Non è quello, cazzo. Produci più latte e ti mettono la multa, invece che premiarti ti mettono la multa. Io lo vedo un'assurdità, boh. Spiegatemelo voi. Ogni volta che sono in FM devo abbassare. tu mi devi dire una cosa, perché questa radio adesso c'è portato in vatto a zero, non c'è in vatto. Ma dite un oggi toccato di FM, non mi c'è qui. Io ti ho anche a te, non ho toccato FM, non so io perché. Io FM non ho toccato. Ti ho dato 20 watt in più in AM e basta, e ho aumentato il picco di modulazione. Solo quello ti ho fatto davanti a te, quindi non so cosa dirti. Io quella radio non sono mai modulato in FM, ma l'FM non piace. Non mi è mai piaciuto, non mi interessa. Capito? Lì quella di Giampaolo le ho tirato l'FM un pochino, perché c'era 50 watt in FM e gli hanno fatto dare 100. Portante fissa perché l'FM non si muove, non ha picchi modulazione, quindi gli ho messo 100 watt in FM, ne aveva 50 e basta. Ma la tua io non l'ho toccata, non saccio dirti niente. E vabbè, claro, non è seguito neanche se tu lo dico, perché non ammazzano? Ho detto, claro, mi ha rubato la radio, ho detto, perché? Oh, lo so, sto qua. Io lo so, questo già ne so qui. Chi ce l'aveva prima, che cosa ha fatto, non lo so. Non lo saggio, io quando ce l'avevo, ti ripeto, non ci sono mai andato in FM. L'ho sempre usata in AM e bu. E bu. E tra l'altro con quella potenza che usavi tu. Capito? Perché quella era quella secondaria. La primaria ce l'ho io di quella. Cioè, adesso c'ha le stesse batte di quella lì. Cioè quella lì c'ha le stesse batte di quella che c'ho io. Ma prima quella lì non l'ho neanche mai toccata. Ci modulavo ben poco, molto poco con quella. Modulavo sempre con l'altra. Quindi non so cosa dirti. Non ricordo neanche da chi l'avevo comprata quella. Se l'avevo comprata in continente, se l'avevo comprata qua, non me la metto. Non mi ricordo, non so che dirti. FM io non la tocco mai perché è una frequenza che non mi interessa e quindi non so cosa dirti. Avanti Gianni. Cosa vuoi là? Sono radio anche che adesso gli anni ogni tanto vorranno tarazzi un po'. Sono radio che sono buone ma hanno anche i suoi anni. Vabbè, comunque se va bene la M, lo sai che io dico a fuggire, tanto non si sa mai l'FM. Perché in FM quanti fatti da? Luca. Scusa, ecco, dimmi tutto. Ho detto in FM quanti fatti da? In FM, aspetta. Se lo chiudi a 50 volte. i baracchini quando ci fanno una volta non ci devono più toccare, il discorso è quello, è come la macchina, quando ti fa la manutenzione, sai che la manutenzione è fatta bene, e ci feci tra 3 anni, 4 anni a fare l'altra manutenzione. Giuseppe, non ti pigliarla in culo, lavorabili in culo, una volta e la seconda no. Sì, tu quando vai non dici queste parole, cazzo, e sei sboccato veramente. Sono sboccato. Sboccato, hai capito? Sboccato. Dai, per carità. Perché ti sei scandalizzato? No, io non l'ho mai presa, e dunque, è tuttora, preferisco non prenderne. E ci trevo il culo, non li preferisco. Se manca Giuseppe, io lo metto più a baracchino. Non ascolto più niente, mi sembra manca Giuseppe. Lasciamo perdere questo discorso, cambiamo un altro discorso, io. Come tu vuoi, adesso non me ne ricordo più. Giulio Barraco diceva a Porottore che non era tanto lo dolore, anzi era la procedura, Giuseppe, capito? Quindi non ci sono problemi, non ci sono quelli tanti che la Bibbia in culo d'uno. Io non ce l'ho, è tutto cazzo, è il primo pezzo, poi faccio tutto da solo. Allora, tutti i figli di Avvenuccia ci avevano gli occhi celesti e quando le chiedevano di Avvenù a chi di migliori mani dolci gelette, a chi Giulio Meo Baracaboccia gelette. A proposito una cosa, Cla. E dimmi, a proposito di Gabocci. No, è un'altra cosa. Mi spiegali. Stasera gli ho detto che non era Bindaccio il nipote di Lucinda con le Bloaghe. Dillo a Luca Vere, a me se non è Bindaccio. Chi? Diglielo tu. Devi stare lontano quel ragazzo perché è peggio di Dio, capito? È Bindaccio per il guru buru. Luca? Che senso hai a Claudio? Sì, la gente, ma che cosa cavoli è ultimo, ma mi sono fatto che c'è il nipote del sindaco di Provacche. Ti ha detto che si è presentato lui, cazzo, dice io sono il nipote del sindaco di Provacche. E cazzo, ho detto la Provacche deve venire che tu a cercare lavoro, cazzo, non ti poteva mettere in corso tuo zio. Cazzo, non c'è, come che ha detto, aspetta, no, che non c'è attenzione per il nipote. Cazzo, ho detto, attenzione va per i nipoti. La via fatta a Sciamia, il comune di Provacche, cazzo, ti è stato per un tombino. Toccava la faccia della strada in Corso Spano, c'erano tutti i tombini aperti per fare i livelli delle guide dei copri tombini, cazzo, ti è stato Trento. Cazzo, via, via, carità. Mi ero un biglia, per favore, ma cosa sta facendo con voi? Il bianchino? No, a tagliare l'erba. Allora vedi che stare lontano che se ne taglia ribelli quello che c'è sugli attori sul benzino. No, non ce ne hanno, è accorgio, è a tagliare così a mano, capito? E poi con la zappa. Cioè, ma adesso non si mette prendendo per il culo, Giuseppe, o che cosa? No, io non sto prendendo per il culo a nessuno, Luca. Ti parla di cazzo, uno, nipote il sindaco, si fa il servizio civico. Cioè, è proprio come le colmi, Cazzo, oh. Allora, se sono palle, ti sto raccontando palle. Cazzo, si è presentato lui, e mi ha detto, io sono il nipote del sindaco di Provacche. Ha detto, va bene, molto piacere. Ha detto, come te è stato? Strano. Quello che mi dice Gustove, ha detto vabbè, vieni con noi a raccogliere, a tagliare l'erba, ha detto come ci usare gli attrezzi, e io niente, cazzo, allora taglia l'erba con le mani, e cosa cazzo butti in bocca? Erba con le mani. Ma almeno i guanti glieli hanno dati le oggi. Giuseppe, come si chiama di cognome? Ciao Fabri. No, cognome non lo so, io so solo che si chiama Massimo. Allora si chiama Massimo Baule, già è lui. Massimo Baule. scritto la poesia. Ma c'è un po' come si chiama, è un po' di un po' che rende lo zio. E a me mi ha detto solo il Massimo, poi non lo so, il cognome io non lo so. Io non mi potessi chiamare Massimo, già, lo conosco anche, sale lontano, dice Paragurumi. La regina ancora aveva bugata, ce n'era. No, ce n'è ancora. La regina è lui, c'è la vecchina, non te ne deve fare, che tu vero, ma anche la mincia. No, la mincia è molto più bella di lui. Ciao, saluto a tutti, io vi ascoltavo e sono dovuto entrare perché Leoncino perché esagera, Leoncino sta esagerando, guarda che quello io lo conosco, lui è un po' magone, capito? Devi stare attento, lo conosco molto bene, sta attento perché stai rischiando, Grazie di avermi dato il consiglio e di avermi avvertito, tanto perché non si voleva che era magone, no. È entrato con lui, che ha fatto il corso. Attento a quando ti chiedi a raccogliere la zappa. No, io no. Stai tranquillo che io quando vado a raccogliere la roba ci ho sempre la butta presso, però io non raccolgo l'erba, io raccolgo tutta quanta la carta e tutte quante la roba che ci buttano quei bambini dalle scuole, capito? Penne, matite, gomme, temperapis e più che temperapis. Da dove li buttano? Alle scuole. Quelli tutti porta a casa. E io da portare a casa. Meno la carta. La roba delle matite, righelli, temperapis. Ecco, ma questo temperapis dove li trovi? Questo qua ha avuto una finestra. Come ha rotto il vetro, cazzo, me ne vedo, cazzo, questo vetro scendendo fianco a me, adesso esce, mi scuoto, cazzo, lo stiamo in pieno questo, cazzo. Ecco. Io mi sentite in Grobbe. No, Grobbe, mi sentite con la vita. C'è un mitico, teoria. Vabbè. Sai cosa è? Ripeto, un nipote di un sindaco, cioè come si fa al servizio civico. Vabbè, io diciamo un mio zio che tramite, vabbè, parenti di mia madre, che Claudio sa chi è, non faccio nomi, però, e purtroppo al momento non può fare niente, però il giorno che entra il sindaco ti faccio vedere dove entro, fisso, Non lo vogliono a lui, cazzo, te lo sto dicendo, te l'ha detto pure lo zio da Boaghe, quando stavano facendo la strada in corso Spam, si è trovato dentro un tombino e si è messo, mi pare, 2 mesi in infortunio, ha creato un sacco di casini. Cazzo. Lo dicendo, cazzo, un'altra volta mi sembra che stavano facendo il prolungamento lì della rotonda su alla fine di sempre in corso Spam, dietro la chiesa, e non so cosa ha fatto, se aveva staccato dei tubi che non erano però tubi che dovevano essere staccati. Io ci ho fatto un po' di tempo lì che era molto su anche quelle zone, quindi infatti ho detto a Giuseppe se c'è ancora Lecchino, so che si chiama Massimo, ma se il cognome è quello del fratello del sindaco, quindi lo zio in primo grado, perciò lo conosco bene, ma è un guapo, un paraguru, c'è cioè una persona che non serve a niente, capito? Quindi più che quello non potevamo mettere a fare. Se non viene da me l'abbiamo avuto prendere un depuratore di lupi, l'abbiamo usato di chi in mezzo ai buchi. E vabbè, no. Comunque. Gazzotto. Oh, iaia, per carità. Saluti anche a Grobbe. Ascolta Leonci, ma quando ti sei presentato, tu come ti sei presentato? Lui si è presentato come il nipote del sindaco, e tu come ti sei presentato? Io sono il nome mio. Giuseppe, perché? No, perché se uno dice, sai, io sono il più a piacere, nipote del sindaco, cazzo, tu ti devi presentare, che ne so, piacere, Giuseppe, noto Leoncino, amico di qualcuno, cazzo, cioè, giusto per darti un tono, capito? Io 4 gli dovevo fare la riverenza. Ma lascia perdere Fabri, lascia. Non mi abbasso, non hai capito, non mi abbasso. Anzi, e se mi gira pure, scusando la frase, se mi gira i coglioni, cazzo, le tiro cazzo due bambini, cazzo, e lo cappotto veramente io a quello. No, ma per me gli ultimi erano abbassati, se non te lo metti in culo quello. No, già no. Ma lui Massimo. E poi stavamo parlando, ma cosa fai? E nel discorso mi ha detto, io sono nipote del sindaco di Ploaia. Ho giocato, c'è il nipote del sindaco di Ploaia e ne vieni qua a fare questo lavoro. E dice perché mio zio non mi poteva aiutare e non mi poteva assegnare un lavoro, farmi lavorare in un lavoro fisso, hai capito? No, lo può vedere lo zio, Giuseppe. Giuseppe, guarda che quello è filippendio e non puoi neanche insultarlo. Giuseppe, quello è un handicappato, il cazzo è della buona in culo, mi allontano, dire che sono un zio. E lascia perdere Cla. Non è stato convinto di me. Ma no, guarda cosa ti dicevo, tu dille che domani quando lo vedi, ascolta, ma tu come ti chiami? Massimo Baule, se lui ti dice sì, io Baule dice no, mi ha detto zio, vedi. Ciao, ma lui. No, se no, se serve un Baule, non c'è problema, se non c'è anche conosco anche a Coso, a Trucchetti, che gliele faccio fare un paio, a lui e allo zio. Mi pare, gratis, però. Chi è che conosci Trucchetti? Zappa. Però vedi, ce lo potevi dire, mica io conosco Trucchetti a seguito del fatto che lui è il nipote del sindaco di Ploaia. Su quello, sulla morte, guarda, io dico questo. La morte non si augura a nessuno, perché non si augura a nessuno, però se deve succedere, succede, basta, hai capito? Come ne sai? Ma cazzo, sbatte la testa qua e cazzo, ci rimane secco lì. E chi devo chiamare? L'amico mio, Trucchetti. Ah, Baule chiami. E Baule glielo faccio portare da Trucchetti, stai tranquillo. Dico lo zio, non vestaggelo Baule, mi è 2 metri, 2 metri e 50, mi pare un dambulami. Diglielo, ma tu, io conosco tuo zio, ma vero che è grasso? Per carità. Questo Trucchetti cos'è? Marista. Cos'è? Marista. No. Cosa fa? Prepara le cacce da morto. Da Marista, che fare fare? Oh dai, io vi saluto per Corix. Ci sentiamo a frappè, statemi bene, buonanotte a tutti. Vabbè, siete sotto la prima volta, devo fare il QTC e poi me ne vado. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte, Cla. Ciao, ciao, Corixa, per carità. Che ora ci hai fatto, Gianni? Aspetta che guardo. Sono le 11 meno 20. E a 13 minuti e poi chiudo, dai. Ma che non te la faccio alzare, che 13 minuti? Via, e domani si rientra al trabacco. Chi? No, non è entrato. Un pone non c'è. Sono negativo. Ma se vuole fare il marchese? E sopra... Da dove c'è che... Da quando ha portato il cane giù... l'ha morsicato da c'è qualche polpaccio. Per carità. Dai, mio. Inizio. Tutti spostati, diciamo. Oh, sono qua. A me piace questa cosa che uno si sposta in un altro canale, boom, e tutti quanti dietro a sentire. Vabbè. La curiosità non è solo femmina a quanto pare. No, Giuseppe. Oh, dimmi, io sono qua, me. Infatti ti ho chiamato per questo. Ma quindi domani mattina è giornata di lavoro. Gamba. Mezz'ora. Sacco cuore. E siete fissi lì? Gamba. Gava, gava. Fabrizio. Bucca. Adesso non so se siamo giusto, poi c'è la chiesa, oppure alle scuole che ci sono a fianco, è capita la chiesa, che non so se sono le Gianni Rossacco, cosa sono, le elementari oppure le medie lì, cosa ci sono già? Elementari lì, di fronte, San Giovanni Bosco. Non sono San Giovanni Bosco. No. Elementari, non sono lì. Elementari. E tu cosa hai detto? Io ho detto questo. Non so se sono alla chiesa di Santo Cuore a fare pulizia lì, oppure alle scuole elementari. Non so se sono elementari oppure le medie lì, hai capito? Quelle sono elementari, San Giovanni Bosco si chiama come scuola quella lì. E dove doppio rum ho fatto le elementari. Cappa, è stato l'altra mattina, quando la settimana scorsa stavamo pulendo in quella lì alle scuole, stavamo raccogliendo la carta nel momento che, e non mi sono trovato cazzo già tre siringhe a fianco a me. Ma mi occhio, state attenti, pure di fame. Cappa, erano piene, e una c'è, cioè, queste due c'erano, cioè, erano piene di sangue. Schifo, grazie. Oioioi, trovai male. A che punto si arriva? Ma sono già in dubbio quando le trovi così. Con le sangue dentro. Però di una volta sai cosa mi è successo? Perché per assurdo quello dell'HIV dura talmente poco che è impossibile, magari quello dell'epatite sì. Sai cosa mi è successo una volta? Una volta la siringa quando la trovi vuota, vabbè, la prendi e ce la butti, però quando le trovi due siringhe con il sangue, vuol dire che cazzo, o si sono appena fatti e cioè, sono andati, oppure quella è storia della notte al giorno, hai capito? No, ma è importante non pungersi, cioè se la succhi prima. Sì, ma la succhi e dopodiché la butti nella busta, è importante che non ti pungi, hai capito? Vabbè, ma noi ci abbiamo i guanti, no? Però io ho ancora un mezzo, quello che mi ha fatto entrare, gli ho detto dammi la quella per raccogliere la carne e tutto quanto. E non ne aveva. Noi ci vogliono le pinze per prendere, non bisogna prendere con le mani. La pinza ci vuole anche il contenitore per i rifiuti speciali, perché se lo metti nella busta è più pericoloso. Appunto perciò, e adesso, domani, quando vado dico Antonio, mi serve la pinza per raccogliere questa roba, e noi abbiamo trovato tre siringhe con il sangue dentro. E c'erano anche testimoni, cazzo. Ho capito che devo pigliare malati io per colpa di loro. Vabbè, già ti ripeto, è un pericolo teorico, poi alla fine pratico, non più di tanto, perché bastano un paio d'ore e si disattiva tutto. Ma la bocca, sai cosa mi ha cosa fatto un pussi? È stato con la siringa. Ma ero sacro cuore, mi stavo lavando la macchina sotto casa, c'avevo un secchio, gli stavo dando una pulita ai vetri e cose, è arrivato questo tossico con una siringa di quelle piene di terra. E non te ne lascia quattro le cicche dove stavo lavando la macchina. Tanti altri se venni. No, papà, scusami, ma non c'avevo siringa per farmi, ne ho trovato una, adesso la uso. Che sono in scimmia. Ma infatti sono le vene del braccio che un po' non si sta mangiando salvezza, non ti si sta sentendo, Grotte, è avvicina. Sto dicendo che alla fine poi talmente vanno in necrosi e talmente diventano dure le vene che non manco con lo scalpello le buchi. Sì, ma si iniettano di tutto, sono persone, qua, ne vedi certi, se vai a comprare la bomba che c'è lì in via Chiarini, tutto pieno. Ma tu immaginati. E loro utilizzano l'ago dell'insulina perché c'è il filtro, come ben sai, ma perché la dose viene tagliata molto spesso con materiale, la prima cosa che trovano, se tu vai al latte dolce, c'è la chiesetta, quella che trovi nella strada vicino alla via Giovanni da Verrazzano, c'è la chiesetta che è tutta scavata, quel tuffo lì lo usano per tagliare la dose. Ah, vero? Sì, yes. spazzatura per allungarla. Cioè alla fine è una bucaria, capito? Immaginate cosa ti sta mettendo nel corpo. Che botta, scusami tutto. Carità. Non ti penso a quanto pare quello skipper che l'ha trovato al ghetto con 450 kg di cocaina, era tutta pura. Ma è già la seconda volta che ti capiamo, ma tu stai dicendo quelli che hanno trovato al largo, che avevano la barca in avaria? Uno solo era, un tipo di 37 anni, era solo lui. Ma quello sono da quando partono, mi capito? Sono messo fiato sicuramente. Brava. Fabrizio, sei rientrato? Sì, io sono qua. So che sei qua, te lo so, ma che marca è quel rosmetro che mi volevi dare? Boh, non me lo ricordo, era un rosmetro chiuso in macchina e l'ho provato, è molto reale. Ho visto anche di colpo due davano lo stesso risultato, nel senso mi davano uno e uno, sono contento, nel senso che basta alzare un po', tirare un pochettino una molla, adesso è una bomba, non lo avevo bene. Ma infatti tra l'altro l'antenna non aveva niente, perché l'antenna avrebbe avuto problemi, se ti ricordi quando stavamo parlando qua, che problema dava su tre frequenze, che se ne andava a puttana, andava a fondo scala, invece su altre frequenze, visto che riuscivamo a regolare, bene, ma rimaneva 2,5, 1,8, 3, 2,8, ti ricordi, e poi scendevi su alcune frequenze, scendevi un po' di frequenze e lui scendeva, perché probabilmente stava risuonando su quelle frequenze, invece visto su quelle che proprio quali erano quelle 3 o 4 frequenze che andava a 10, perché praticamente l'antenna non stava funzionando e ho dovuto rimettere in mano su una carica, come ho rimesso a posto quella ripresa a funzionare, quindi era massa praticamente, e così l'antenna tua, se avessi avuto problemi in casa ce le avresti avute oltre 10 le stazionarie. Capace a fare il lavoro da solo, è un po' una rottura di scatola, capito? Però, ma perché pesa leggermente, quindi la devo puntare, la devo far basculare, e ho paura che siano fessere radiali. Ma te l'ho detto io, quando stai facendo, ho detto, devi venire Antonello, ho detto, ma ti l'avevi già piazzata, ho detto, stavo salendo, ho detto, passo un attimino, passo, ci mettiamo, quando, e ti dico, ma l'avrò fatta in due, che uno la mettevi su, anche con un apparecchio collegato su, la controllavi le stazionali, no, ok, la rimettevi giù, e l'avevo fatta in due, in un attimo. Ma infatti l'avevo tutto su, ma anche tu dimmi la verità, quante volte ti sei fatto aiutare? Vabbè, io in genere mi faccio tutto da solo, cosa c'entra? Ma quando, alla fine, quando si è trattato di tarare, perché erano 5 bande dovevo tarare, perché alla fine un po' ho provato da solo, poi alla fine una mano ti serve, perché visto uno rimane giù, e soprattutto non è solo la 27 che in un attimo tiri una frequenza, lei aveva tutte le frequenze da provare e ci voleva uno che 2 mm fuori, 2 mm entrano, e rimane lì, era obbligato a farlo in due, capito? Ma comunque io ci avevo tutta la strumentazione sua, cioè mi sono portato su anche l'apparato. Ho capito, ma il problema era che se io mi avrei messo una scala e avrei lavorato 4 ore, io avrei lavorato direttamente sulla scala. Vabbè, comunque, ti ho detto bene, ho stretto tutto, adesso devo. Io ho già messo i cavi per controtinantarla, adesso vediamo anche. Scusate, sto facendo monologo, ma non c'è bisogno di contrattirare, di mettere i tiranti in quell'antenna, eh? Sì, è pesante. Poi, vabbè, il piede, mi ha un po' preoccupato che il piede non sia entrato completamente tutto, sarà entrato tipo 15 cm, però prima di spaccare un tubo, già è inserito con 15 cm un dado passante, non credo che ci siano problemi. Ma scusa, ma quella camicia gliel'hai fatta? Negativo. No, perché poi è entrato, poi cosa ho fatto? Ho riaperto il collo e sono riuscito a tirarlo fuori. L'ho rilucidato proprio bene ed è entrato per 15-20 cm e dopodiché gli ho messo un dado passante. Sì, ho capito, ma comunque la controtirante, i tiranti praticamente, quando tu metti i tiranti non risolvi niente, perché quel palo non lo pieghi nemmeno per le balle, sono 4 metri di palo, di cui ne sporgeranno 2 metri e mezzo, ne sporgeranno fuori, miglia, raga, ma parliamo di un palo del genere, non lo muovi nemmeno per le balle. Poi ho visto che la gaffa gliel'ho fatta abbastanza bene. Sì, ma infatti se c'è, non ce n'è bisogno lì di tirare, cioè soffialmente al limite rispetta l'antenna, ma il palo non lo piega. Poi guarda, anche l'antenna, se anche se dovessi aspettare il coso, se un RG213 o RG8 rischio è anche se dovesse cadere l'antenna la tiene. Sì, ma non succede niente, i tiranti non ci fanno niente, tanto se si spezza l'antenna mica metti i tiranti sull'antenna. Quindi non mi interrompi, che altro poi passiamo alla parola a Gianni. Più altro per evitare che vibri e dia fastidio per una cosa di rumore, di vibrazione. Poi anche se dovesse cadere l'antenna cade sul terrazzo per il tipo di vento che tira, perché tira maestrale di solito. Ma le antenne non cadono, in genere si piegano. Brava, Gianni, riprendi. Io normalmente quando ho piazzato l'antenna abbiamo fatto sempre anche più di due. Per guardare le stazionarie avevamo due LPD, uno stava giù e l'altro su, uno regolava e l'altro diceva no, poi adesso vai appena appena ancora un po', fino a quando la regolavi bene. La vergogna è che come era fatta la Ringo, che proprio aveva una struttura davvero misera, era tutta ossidata. Ha detto che si ossidano coso, l'ha detto anche Antonello che si ossida. Però io, tu l'hai vista la mia, io ce l'avevo 11 anni forse, 10-11 anni così, ce l'avevo su un tetto. Un giorno quando poi ho deciso, esci che faccio qualcosa, l'ho smontata dal tetto e me l'ho piazzata qua. E l'antenna che praticamente aveva poco e niente, ci è passata una piccola revisione, poi l'ho smontata che andava benissimo ed è buttata sul tetto e tutto lì la dovevo smontare sul terrazzo, capito? Eppure a me ha fatto una resa incredibile quell'antenna. Si dà anche quello che mantiene l'antenna stessa, però che quello lì non è molto positivo la cosa, ti aspetti qualcosina di più, ma se poi pensi che l'hai pagata 38 euro meno di un'antenna di macchina. Signori belli, io vi auguro una buona notte, ci sentiamo tutte le prossimine, quelli lì per me, dai. Ciao, ciao Gianni, ciao Antonio, Croce e ciao Fabri. Ci sentiamo tutte le prossimine, dai. Ciao ciao. Ehi, ciao, buonanotte Leoncino, mi raccomando domani stai attento, mi raccomando, che mi dispiacerebbe se arrivi qua magari che ti è successo qualcosa, sai, un po' di pederastie, quello sta attento, ma tu dico veramente sinceramente stai attento che è un po' pericoloso. Aspetta, ti do un consiglio io che sono tecnico della prevenzione negli ambienti nei luoghi di lavoro, comprati da Bricomen le mutande col fondo in ferro, guarda, che sono la cosa migliore. Ciao, buonanotte a tutti, dai. Ne approfitto anche a salutare, buonanotte a tutti, ciao Leoncino, ciao Grobbe e anche Occhi di Gatto, ciao ciao. Ciao, buonanotte Gianni, a domani, alle prossime, dai. Ma di Roger, dai, ben sentiti a tutti e due, buon trabacco a entrambi per domani. E chi ci è rimasto? Siamo solamente io e tu a ballare all'Alligalli. No, c'è Luca anche, mi sembra. Beh, sta toccando guardando qualche finestrozzo, qualche sito sotto. No, sono qua, sono Luca da poco. Da solo ho pizzicato 9 miliardi. Sto bimbo che si sente in fondo. Ciao, avanti. Ha fatto qua, ha 79 miliardi. Siamo con l'Elva. 245, un altro 1000 miliardi. Cazzo. Io 1000 miliardi come i monopoli, sono 2000 milioni di miliardi e poi 9 di nulla alla fine, perché almeno ve ne dessero nel momento in cui vincete. Ma e chi è? E vabbè, lascialo bippare se non vuole entrare, non dà fastidio. Hai visto che hanno assolto oggi? Sì, io l'ho visto, ma è formula piena, però secondo me è per mancanza di indizi, soprattutto mi devi spiegare perché queste due persone hanno incolpato un poveraccio e soprattutto ce n'è uno che è quello, non è Rudiger, l'altro, Lumberba, ma Rudiger è perché si trova ancora in carcere per concorso di colpa quando tutti e due sono stati scagionati, no? C'è qualcosa che non è chiaro, dai. A proposito, stai studiando? Sì. Oggi mi ho dimenticato di andare a casa, ma domani me lo porto. Adesso sono a casa, ho detto, però mi ho dimenticato di andare a casa stamane. Era lavoro, se no me l'avrei portato. Io sto comunque continuando a fare ricerche, sto aspettando risposte. Poi quando siamo in verticale se ne parlo. lo so, l'ho visto anch'io, ho anche scritto, mi hanno dato il numero, devo telefonare, però voglio dire, adesso faccio questa strada e poi vediamo un attimino, non lo so. Diciamo che ne vale la pena fino a un certo punto, perché se il comportamento è quello normale non c'è problema, uno studio vai a fare la cosa, però se come sembra che stanno un attimino creando problemi perché ne vogliono fare un circolo esclusivista, allora non va più bene, capito? E vabbè, adesso vediamo, mi ho ricordato che me ne sono dimenticato, stavo al lavoro, stavo facendo alcune cose, me ne sono dimenticato, devo parlare perché parlo con un collega, ricordami, devo fare una telefonata, poi me ne sono dimenticato, mi sono messo lì a chiacchierare, a fare, dopo io ho mangiato, dopo pranzo mi sono messo davanti al computer e mi deve essere anche calata la palpebra e mi devo qualche 10 minuti, mi devo essere addormentato perché stavo leggendo un documento, ho aperto gli occhi e ho detto su, grazie, ho visto gente che entrava, mi devo essere addormentato, ho detto. Una cosa, ma a proposito, Barracuda non è entrato, Barracuda se si nasconde viene avanti. Tu allucinante, ma cosa ha fatto? C'erano 2Q in mano, sono usciti 2Q in terra 2.5. Tu poi ha fatto un full più un poker. Buongiorno, se vuoi ti invito a giocare sul serio. Ha fatto 400 milioni questo paraculo in merda. Però hai glissato la risposta. Dimmi, non ho capito. Se vuoi un giorno ti invito a giocare sul serio. No, reale o virtuale? Texas sul serio reale. Non mi faccio smettere tanto, però sai cosa è? E ho creato un po' di merda in questo gioco, perciò preferisco non giocarci. Ma c'è poco da avvertire a te, non è che te la puoi prendere con chi vince, no? Lì si mette 5-10 euro, quindi delle cifre irrisorie, però quando sei in otto che stai giocando, magari sei due tavoli anche, ti trovi nella condizione che se vinci, perché facciamo al primo 60 euro e al secondo 20, se siamo in otto. Comunque, se sei primo vinci una cifra considerevole, se poi perdi 10 euro, cioè per farci una serata al pari di andare a mangiarti una pizza. Vabbè, non dico, è un gioco che ormai mi sono talmente fissato, anche se questo qua è virtuale, no? Però sono talmente fissato, figurati se io vado a giocare, ah, sei bloccato. Dico, figurati se io vado a giocare realmente, mamma mia, no, voglio di nuovo. Bene cari, io mi sa che si è fatta ora e vi devo lasciare. Fabri, tu domani mattina che cosa sei, di mattina o di sera? Pomeriggio, domani mattina al pomeriggio. Sì, sì, domani mattina ci prendiamo un aperitivo. Ti faccio uno squillo a mezza mattina. Zucca, ben sentito, ben ascoltato, dai, entrambi buon QRT quando lo farete, buon 144. Antonio Grotte, chiude la trasmissione. Vabbè, buonanotte, io domani mattina alle 11 sono a tagliarmi i capelli, 11 e mezzo, mezzogiorno e un quarto, sono dal dentista, cercatemi di venire a provare questa capsula, vediamo che vada bene, che c'è una provvisoria, e poi magari se dopo magari ce lo possiamo prendere un aperitivo. E domani mattina devo scendere in garage che c'è l'altro baracchino aperto che sto facendo la modifica e spero di finirlo domani. Stai cercando Anto? Ma stavo cercando perché mi stavo preoccupando del fatto che non fossi ancora entrato, assolutamente. E ti stavo dicendo Fabri, ma quella sbruciacchiatura l'hai risolta? Sì, l'ho risolta, poi salendo è andata a massa tutte le cose, adesso sto facendo una modifica perché gli sto facendo un bel dissipatore di calore, diciamo, dai. Quindi oggi l'ho fissato, domani devo spostare l'altoparlante all'interno, quindi sto ricostruendo la strutturina fuori eccetera eccetera, gli do una lacatina veloce e monto tutto dentro, perché se sto smontato io questo cazzo di baracchino domani rimonto tutto quanto, lo provo e vediamo come va, dai. Quella cortesia che ti ho chiesto si può fare, sono 7 streamer, mi prendi tutti quanti i valori, o se vuoi te lo do, mi prendi i valori e dopodiché mi dici per ogni cosa quant'è, non ci vuole poco, cioè non ci vuole molto, va bene così, mi sono informato anche senza bisogno di staccarmi. Ma che valori vuoi che ti prenda? I streamer. tu li metti un puntale da una parte, un puntale dall'altra e guardi un attimino cosa c'è. Ma non fu un trimmer, ha mille varianti. Tu fai una cosa, io domani sono in garage, se invece di dormire sino a mezzogiorno se ne alzi, che tanto intorno io penso che sino alle 10:30 sia lì in garage, scendi, ce l'ho aperto, ti porti il tuo e lo fai uguale a quello che c'ho io e facciamo tutti i controlli che vuoi. Dove hai detto che ce l'hai in garage? Quello che era di distanza di me. No, a Sant'Orso, dove c'ho il laboratorietto, a Sant'Orso la c'ho. Sono lì perché l'ho aperto e sto facendo queste modifiche, siccome non era solamente per modifiche di, diciamo, di elettronica, di componentistica, ma anche, diciamo, meccaniche, nel senso che sto ricostruendo la parte dove c'è l'altoparlante, da quel coperchio, quindi gli sto aggiungendo un dissipatore di calore. Poi domani vedo se, bravo, me ne ricordo, adesso mi alzo e prendo una ventolina per vedere se riesco anche a inglobargli una ventolina di computer, poi vediamo. Però se più che altro, Luca, se mi puoi dare una di quelle manopoline ci faccio domani o dopo, dai. Guarda se ce l'hai anche tu, Fabri, una in più. Mi serve la manopola grande di quel Texas, però quella con il cambio canale. Dai, ci vediamo domani mattina, rilancio Barracuda e buon QRT a tutti quando lo farete e buon 144. Ciao. Ciao Anto, ciao a tutti. No, io vi stavo ascoltando, guardo il televisore, proseguite tranquilli. E intanto anche io mi chiudo, che sono le 11, che domani mattina, anche se non lavoro, anche che faccio orari diversi, però devo portare i bambini a scuola, quindi sono butto sul divano un'altra oretta, e mezzo, mi stordisco e poi me ne vado a letto, dai, riprendi per i saluti. Luca, saluta, ragazzi, come gli scemi mi lasci. Ragazzi, buonanotte, buona giornata, per domani buon lavoro e niente, dai, che me ne vado a nanna, perché domani mattina mi devo alzare alle 6:30. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Avanti. Aia. Come la faccio un buon radio, passando buonanotte. Emi, stiamo salutando. Chi è da quella parte? Allora come la faccio? Oh, ciao, buonasera. Mi chiudendo, tutti andando a nonna che devono tutti lavorare. Ancora andare a lavorare, ancora. Allora, vorrei. Ma qui la gente va a letto presto, capito? No, ma io ancora rimango un paio d'ore davanti alla televisione e poi me ne vado a Nina, là. E io come sempre io mi devo addormentare sul divano, poi spengo tutto e me ne vado a letto, se vado a letto non riesco a dormire. Meglio così, no, io arrivo, posso arrivare stanco quanto vuoi, ma per me è un problema addormentarmi anche perché non mi piace giusto il letto, lo vedo il tempo sprecato, quindi per me è quasi una forzatura andare a letto. Nessuno, credo che abbiamo tutti salutato, tutti a Nina. E anche io sto andando a letto, cioè sto chiudendo, ho tentato e sono entrato giusto per salutare. Saluto, 151, 144 dopo